Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Figlio mio, c'è Pernacchio e Pernacchio. Anzi, vi posso dire che il vero Pernacchio non esiste più. Quello attuale, corrente, quello si chiama Pernacchia. Prima era cosa volgare, brutta. Ma il Pernacchio classico è un'arte. Siamo Pasqualino, Vicenzo Urammare, siamo tre, quattro. A conoscerlo profondamente e a praticarlo in tutta Napoli, il che significa in tutto il mondo, il Pernacchio può essere di due specie, di testa e di petto. Prima nel caso nostro li dobbiamo fondere, deve essere di testa e di petto, cioè cervello e passione. Insomma, Pernacchio, che facciamo a questo signore deve significare tu sia schifezza, mi spiego? Va bene, bravo. Come si chiama tutta la sfilza di nome che c'ha sto... Il fenomeno bianconero, Gonzalo Higuaín! Tutti insieme? Sì. Madonna! Bene! Questo glielo fate due volte al giorno, quando esce e quando rientra, eh? Maurizio De Giovanni, illustre intellettuale, sulla scorta di questo immortale capolavoro, me lo fa un Pernacchio? Guardi, io non sono assolutamente nei quattro abilitati e accreditati dal meraviglioso Edoardo a fare una cosa del genere. Il Pernacchio, non la Pernacchia, come viene erroneamente definito nella vulgata, è qualcosa di veramente sanzionatorio, direi. È una lapide, è una pietra tombale sulla fine dell'autostima da parte di chiunque. Temo non basterebbe ad annullare il valore di questo fuoriclasse, come degli altri fuoriclasse in campo. Ma però, fuoriclasse si sta riferendo a De Filippo, si sta riferendo regista dell'oro di Napoli. No, io dico di fuoriclasse, io parlo del valore del calciatore, del valore dell'essere umano, o altre opinioni, o altri atteggiamenti, altre posizioni personali. Ma per quanto riguarda il valore del fuoriclasse non c'è alcun dubbio, insomma. Speriamo, bastasse questo Pernacchio. Io sono convinto che al minuto 71 della partita, perché c'è anche una simbologia dei numeri, come sapete, che noi conserviamo e che valutiamo, al minuto 71 un Pernacchio di 60.000 e più spettatori sarebbe, io credo, un bel saluto e un ringraziamento, diciamo, per la memoria di quello che ha fatto. Anche questa è cultura. Per la smorfia il numero 71 è l'uomo di merda. Questo fa parte, diciamo, della cultura italiana, come il Pernacchio. Giorgio De Luca è il nostro autore, mi permette di presentare la squadra e poi continuiamo. Giorgio De Luca è il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione, Giovanni Capuano qui con me. Comunque io non vado via, qui non va via nessuno, anzi occupiamo la radio finché Maurizio De Giovanni non ci dice allora il nome dei quattro depositari dell'arte del Pernacchio. No, sono quattro depositari citati da Edoardo. Ma sono in vita, sì. Sono quelli, ma quelli, cioè, ce ne sarà mai almeno uno domenica a San Paolo? Sì, io ho un amico straordinario meccanico di scooter, direi, un mago, che tra le sue grandi capacità personali, il nome è Nando. È in grado anche di prodursi. Ma lo vogliamo chiamare sto Nando? Possiamo chiamarlo, per favore? Adesso Giorgio, quando lo salutiamo, Giorgio recupera da Maurizio il numero di Nando, il meccanico di scooter. Possiamo dire che chiamiamo a nome suo? Perché io ci tengo in maniera particolare. Certo che sì. Non so della reperibilità al momento. Vediamo. Sicuramente proviamo. Si chiama grado, Nando. Lui è in Nando. Grado di fare un Pernacchio che ferisce nel profondo, insomma, diciamo, no? Perché poi il pernacchio deve fare quello, se ti deve mettere di fronte ai tuoi difetti. Senta, è una crepa, allora, che ti richiama al fatto che gli altri ti vedono come te. È come dire a lei che è nudo, insomma. Allora, diciamo, io ecco, posso dirle una cosa: il pernacchio è musica, ma musica celestiale, nei confronti di quello che abbiamo sentito questa settimana da più parti, e anche, se mi permette, nei confronti della battuta di De Magistri, poi abbiamo sentito a livello politico, intendo, e lei sa bene a cosa mi riferisco, è musica celestiale nei confronti di quanto abbiamo sentito a livello politico in questa settimana, e anche nei confronti di quella che vuole essere una battuta del sindaco di Napoli, De Magistris, Higuain come Salvini. E diciamo che c'è questa vaga, io non so se voi la rilevate, ma io vedevo anche una morfologia comune, direi. C'è dal punto di vista... ci rifacciamo alle somiglianze fisiche. Questo volto, sì, questo volto vagamente tondeggiante, con un incipiente calvizie... Sì, sì, però Salvini pesa 20 kg più di Higuain, dai. Certo, ma fa anche un altro mestiere. Dipende dal periodo dell'anno, perché quando Higuain torna dalle vacanze... quando il pipita torna dalle vacanze, possiamo fare la prova bilancia. Ci colgo una comune morfologia. Se facessi il pittore, insomma... sarebbe un volto che potrebbe ricorrere ai lati di Gesù, insomma, diciamo, in una crocifissione, certo, potrebbe ricorrere nelle posizioni laterali. Al posto di Gesù chi ci mettiamo? Chi? De Laurentiis, Sarri, chi? Al posto di Gesù, o Vesuvio. Ovviamente siamo al blasfemo, ragazzi. Allora sì, ci inostriamo in territori pericolosi. Cioè, De Laurentiis non credo, perché non è stato tanto crocifisso quanto beneficiato da quella gestione. Io metterei il tifoso del Napoli medio, direi, che si è visto privare. Sì. Peraltro, allora, il tifoso del Napoli medio, potremmo metterlo in mezzo, magari da una parte ci mettiamo Higuain, dall'altra ci mettiamo De Laurentiis. Mettiamo Maurizio De Giovanni e lo mettiamo in mezzo a De Laurentiis e Higuain. De Laurentiis nemmeno, ha un ruolo, direi, più più pubblicano, diciamo, in sede biblica, direi, quindi della vendita. Sì. Invece io ci metterei dall'altro lato il oltre il tifoso del Napoli al centro, diciamo, e dall'altro lato qualsiasi innamorato del calcio e delle bandiere, direi, no? Cioè, qualcuno che ancora crede che certi saltelli sotto la curva abbiano valore. Certi baci sulla maglia dopo un gol, che certe dichiarazioni di amore eterno in sede di conferenza stampa ancora abbiano, non dico un valore, ma almeno un senso. Invece sì, così purtroppo non è. Allora, ci prendiamo troppo sul serio, ormai dovremmo averlo capito come funziona. Posso fare un altro? Io devo approfittare. Approfitto ancora anch'io. Perché io ho capito però che sotto c'è un timore incredibile, che invece magari al minuto 71 Higuain faccia quello per cui è pagato lui e non Salvini, cioè fare gol. Allora, qual è nella smorfia il numero del cuore ingrato? Non saprei, non ho questa cultura, ma non credo ci sia. Cioè, datevi da fare 90, con internet. C'è il 90 che il 90 fa la paura, ed è indicativo, perché il 90 è anche l'ultimo minuto, no? Sì. È anche l'ultimo sospiro di una partita. Quindi la paura che al 90, come peraltro spesso succede a questa squadra che il Napoli deve incontrare domenica sera, dal 90 in poi è un territorio in cui questa squadra spesso si toglie qualche sfida. Insomma, stiamo a vedere. Noi abbiamo due partite, per fortuna, da giocare. Quindi sia l'una che l'altra avranno un senso, no? Ma tu firmeresti per vincerle tutte e due 2-1? No, 2-1 non va bene. 2-1 è 2-1, vai fuori dalla Coppa Italia. Io firmo per l'1-0 e per il 2-0. Così è troppo facile, cioè, quale napoletano non firmerebbe? Ho capito, ma è giusto. No, ma la risposta è corretta. Piuttosto, Maurizio De Giovanni, l'ultima cosa che le voglio chiedere: di Giuda non ce n'è uno solo, almeno nella storia sì, ma in quella recente del Napoli c'è Lavezzi, c'è Cavani, c'è Higuain, e potrebbe esserci un quarto belga. Sì, noi abbiamo una grande grande amore nei confronti di un giocatore che, al di là del risultato e dei gol che sta facendo, è sì. anche molto napoletano. Voi sapete che Mertens è detto Ciro a Napoli, sì. cioè noi lo chiamiamo fra di noi Ciro, Ciro. Nome breve napoletanissimo che abbiamo attribuito a quello che ha nei comportamenti, nel modo di giocare, ma anche nei confronti dell'affetto della città, quello dello stumizzo. Quindi per noi Ciro è assolutamente nel cuore, attenzione. Attenzione. Però io direi che se dovessimo ricordare tempi recenti qualcuno che ci ha fatto innamorare, almeno parlo per qui, per i tifosi storici che ricordano ben altro, io direi che il Pocio Lavezzi ha avuto nei confronti di Napoli e dei napoletani un rapporto veramente speciale. Cioè la follia, a volte inconcludente, la possibilità dei grandi colpi di classe, degli errori macroscopici, ma sempre fatti ridendo, perché lui è uno che si diverte a giocare a pallone, è entrato profondamente nel cuore del Napoli. Sì, ora si sta divertendo un po' meno in Cina, ma in compenso è molto ricco. Grazie. Grazie. Mi sembra un buon compenso. Grazie Maurizio De Giovanni, è stato un piacere. Adesso però, la disturbiamo sì, ancora in arrivata a sede per Nando, no, il mago del motorino. Adesso proviamo a chiamarlo, intanto che c'è anche il traffico, quindi cosa vuoi di più? Siamo in tema, Giovanni. C'è anche Insigne che può tradire di napoletani, Ha scritto un amico 349-238-6666. A questo permettetemi, non ce credo. Convocati. Tutti convocati. Ed ecco che arrivano in contemporanea, mentre Capuano è qui con me, Pierluigi Pardo e Maurizio Crosetti. Ciao eccoci. Ragazzi. Ciao. Cosa volete di più dalla vita? Due noti non esperti di pernacchio. Due noti, no, cosa volete di più dalla vita? Vogliamo ora in Nando. Diretta Nando, non so se avete sentito la parte precedente del programma, se no vi faccio un rapido riassunto. Vai. Vi faccio un rapido riassunto, molto Vai. Rapido. Abbiamo appena finito di parlare con Maurizio De Giovanni, gli abbiamo fatto sentire il famoso passaggio di De Filippo dell'oro di Napoli sull'arte del pernacchio, e De Giovanni ci spiegava che ci sono al massimo 4 depositari di quest'arte tuttora viventi. Uno lo stiamo cercando, vediamo se lo troviamo, ma andiamo su altre cose. Come verrà accolto Higuain? Beh, è il tema di discussione di questi tempi. Io credo che i napoletani sapranno scegliere il modo migliore, che va dall'indifferenza all'arte del pernacchio. Sì, sì, beh, lo spero, questi due modi vanno benissimo tutti e due. L'arte del pernacchio mi sembra più adatta, nel senso che insomma, l'indifferenza sarebbe chiaramente un trattamento artefatto, no? Proprio della serie che non ti voglio dare soddisfazione. Mentre l'arte del pernacchio, con l'ironia e l'autoironia che i napoletani hanno, che è straordinaria e che è famosa nel mondo, secondo me può portare a delle cose anche belle, anche positive. Nessuno chiede ai tifosi di astenersi dal commentare, dal fischiare, nessuno chiede questo, in nessun senso, in nessun luogo. Si chiede di saper distinguere, ma è talmente banale dirlo, saper distinguere lo sfottò da qualcosa di grave, invece, che sì, mi chiaro. Auguro e sono convinto che non accadrà. In assoluto, poi, lo dicevamo anche l'altro giorno, questo è stato un trasferimento di un giocatore che aveva un cartellino del prezzo, e questo cartellino del prezzo... No, ma noi abbiamo... noi abbiamo già deciso e decretato che il vero tradimento è quello del parametro zero. Higuain non ha tradito per il parametro zero e nemmeno per la bisaccia con i 3 denari, eccetera, tradito per molti soldi. Maurizio De Giovanni ci ora sosteneva che c'è anche una somiglianza a proposito della battuta di De Magistris, come Higuain e come Salvini, per me, sosteneva che c'è anche una certa somiglianza morfologica proprio nel volto tra Higuain e Salvini. Ecco, allora questo è il vero grande, gigantesco, ciclopico pernacchio 2.0. Cioè al povero Higuain è stato detto di tutto e molto sentirà certamente nelle sue orecchie anche domenica sera, però niente potrà superare come dileggio come pernacchio, come insulto, il fatto di essere accostato a Salvini. Come Salvini, tu sei come Salvini. Poi però De Giovanni si è corretto dicendo, però no, l'hai detto tu forse Giovanni Capuano, sì, insomma, che il peso corporeo è diverso. E io ho sottolineato dipende dal periodo dell'anno, perché dipende da, se, da quando lo mettiamo sulla bilancia, quando torna dalle vacanze o a stagione in corso Higuain. Ma comunque andiamo su una partita, ragazzi, che cui la Juventus si avvicina tra carte bollate da una parte, polemiche dall'altra e Cerotti in testa. Altro che bollate, ragazzi, cioè, in confronto a quello che sta succedendo a Torino tra le due, tra un'inchiesta penale dove la Juve non è indagata e tutto il resto che sta venendo fuori di terrificante, secondo me. Cioè, alla fine non mi interessa neanche tanto sapere la rilevanza, poi quanti mesi, giorni di inibizione, eventuale squalifica, eccetera, ma veramente quando sarà finita questa storia e riuscire a capire qual è stato se realmente qual è stata la natura del rapporto tra la Juventus e i suoi capi curva, questo scrive altro che Higuain che torna al San Paolo. Sì. Ha ben altre grane in questo momento la Juventus. Sì, poi io spero che vengano fuori anche i rapporti tra altri club, tra gli altri club, grandi club italiani e le loro curve, perché basta fare qualche ricerca su Google. Questo è vero, la Juve paradossalmente è stata danneggiata al netto dell'eventuale disinvoltura, chiamiamola così, che poi aver avuto a trattare con certa gente con cui si è costretti a trattare, l'abbiamo già detto anche in questa sede, è stata forse un po' paradossalmente penalizzata dal fatto di avere lo stadio di proprietà, di avere la casa nuova, il salotto con tutti i mobili a posto. Allora dici, io però qui dentro non ci voglio casino, cioè a casa mia nuova, pulita e tutto, devo assolutamente fare in maniera, non ci sono le barriere, lo c'è stadio moderno, è stata una sorta di autotutela forse eccessiva in alcuni passaggi. Questo da un lato aumenta anche una sorta di responsabilità oggettiva, di omesso controllo. È un tema delicato, francamente, oltre alla solita prudenza, che secondo me è un fatto ovvio, logico, perché insomma quando ci sono delle inchieste bisogna aspettare, non c'è niente da fare, noi facciamo tutti i giorni questo lavoro, dobbiamo commentare, ma è difficile commentare delle cose che si evolvono così continuamente, per cui per me la presunzione di innocenza vale sempre e comunque da questo punto di vista. Hai fatto bene a ricordare che non c'è un'inchiesta penale da questo punto di vista. No, c'è un'inchiesta penale nella quale la Juventus è testimone. Nella quale ovviamente la Juventus ha un ruolo da testimone e non da indagata. Ma il punto secondo me fondamentale è questo, è capire il tipo di rapporto che più complessivamente esiste fra certi settori dello stadio, cioè il potere di intimidazione, il potere di condizionamento. Questo è il vero tema. È chiaro che il fatto di avere uno stadio di proprietà ti dà dei vantaggi enormi e la Juve ne sta approfittando benissimo di questi vantaggi economici, di identità, di brand, di tantissime belle cose. Ti dà anche una responsabilità in più, perché è ovvio che li fai entrare a casa tua, e quindi se a casa tua, ammesso e non concesso appunto perché stiamo aspettando l'inchiesta, accetti che ci possa essere della gente che gestisce una parte di casa tua, sì, e in qualche modo poi devi eventualmente rispondere di questa gente. Diciamo, anche se magari... diciamo che bisogna essere molto attenti nella scelta degli amministratori di condominio. Secondo me noi dobbiamo anche dire una cosa, perché noi su questa vicenda stiamo parlando e giudicando guardando al buco della serratura, perché noi abbiamo stralci di cosa Pecoraro ha detto all'antimafia, certo, e sappiamo anche che c'è il giallo incredibile di un'intercettazione che non si trova o che è stata mal interpretata, certo. E quindi io credo sia una questione di giustizia, di civiltà e di chiarezza capire che cosa è stato detto in quella sede. Noi giudichiamo il deferimento che non abbiamo letto, almeno credo la quasi totalità di noi, qualche collega ne ha pubblicato alcuni stralci che però fanno fare qualche domanda, perché ad esempio io mi chiedo se le telecamere beccano il security manager della Juve che porta dentro gli zaini, e presumo che chi lo becca sia qualche funzionario della Digos, ma perché nel 2014 non succede niente? Sì. Visto che in tanti ci raccontano che sono le stesse forze dell'ordine. No, ma hai ragione, però noi stiamo giudicando una questione che probabilmente ha zero rilevanza penale, esatto, e ha magari scarsa rilevanza dal punto di vista della giustizia sportiva, ma ha un impatto devastante dal punto di vista dell'immagine, e noi continuiamo a parlarne senza sapere diverse cose. Di conseguenza ogni illazione è un esercizio barbarico. Sì, e ogni illazione, e ne abbiamo avuto la misura ieri, una certa misura ieri in quella che che il nostro De Luca chiama la tonnara ignorante. Però un attimo, c'era, ragazzi, c'era presente Cruciani, è successo di tutto. È vero questo, però l'esercizio barbarico sarebbe fare soltanto delle illazioni, insomma c'è già una parte di le motivazioni del deferimento, alcuni brani di intercettazione che sono disponibili, nonché alcuni sono disponibili, altri no. È giusto, ha ragione la Juventus nel chiedere che venga desecretato tutto, e questo è giustissimo. Però non bisogna nemmeno adesso andare dall'altra parte. No, non bisogna far finta. Questo è vero. Facendo la tonnara, questo è vero. No, Maurizio, tu hai perfettamente ragione. Però perdonami, c'è una differenza, ad esempio. C'è una differenza, ad esempio, tra il dire la Juventus porta dentro gli striscioni. Consapevole, quelli che sono insultanti della memoria delle vittime di Superga, che è quello che emerge da quegli stralci che vengono pubblicati da un sito che ha fatto uno scoop, ha fatto un grande lavoro giornalistico, e poi magari invece scoprire che l'accordo che non va bene, che è una prassi inaccettabile, ma che magari noi sappiamo succede per tanti altri club, era su un'altra cosa, e poi un altro pezzo di intercettazione di cui tu non capisci il contesto perché si sentono traditi, invece era su uno striscione che non ha niente, cioè dal punto di vista dell'immagine, scusate, non è la stessa cosa. Non possiamo, assolutamente. Noi no, guardiamo questo, dal buco della serratura questo, senza avere tutti gli elementi. È il solito discorso della differenza che esiste fra i tempi del giornalismo e i tempi della giustizia. E questo è un tema che parla, la prossima siamo lì tutti allegramente al festival del giornalismo. Questo secondo me è un grande tema, perché i magistrati hanno il diritto, il dovere assoluto, e devono avere la prerogativa di avere il tempo a loro disposizione per poter studiare le carte. Sappiamo poi che ovviamente ci sono tante pratiche da smaltire, quindi c'è bisogno di tempo, e noi molto spesso sono più pericolosi i processi mediatici dei processi veri e propri. Spesso si assiste a dei processi mediatici che poi si risolvono quando si va a procedimento, addirittura tante volte non ci si va perché c'è l'archiviazione prima, in bolle di sapone. Allora qui parliamo della vita delle persone, parliamo dell'immagine delle persone. Questo vale per tutti, vale per Andrea Agnelli e vale per i suoi rivali e per i suoi avversari. Per me è un principio che vale per tutti e che è una tutela anche per la stessa magistratura, che deve avere il pieno diritto di poter fare le cose con calma, di poterle studiare. E quindi qui, secondo me, questo è veramente un tema da dibattito fra giornalisti, forse autoreferenziale, e mi scuso se magari è noioso, però io credo che tutti noi abbiamo una responsabilità enorme da questo punto di vista, perché quello che si può fare termini di violenza nei confronti di una persona, con un titolo di giornale, con una trasmissione, con una mia, mi ci metto io per primo, con una mia dichiarazione, un'altra dichiarazione, poi non è facile, può veramente pesare e condizionare, mentre poi la giustizia ha pienamente il diritto a fare le cose con tutti i tempi dovuti. E questa mi sembra la classica vicenda della quale ancora capiamo poco, sì. E quindi sicuramente ci sono delle cose che devono essere appurate. Sicuramente i magistrati saranno bravissimi e faranno un grande lavoro, però ecco, insomma, secondo me ci vuole, non è facile, mi rendo conto, perché poi c'è la voglia di fare lo scoop, perché poi c'è la voglia di arrivare anche da parte degli stessi lettori, degli stessi telespettatori, certo, subito, certo, a delle conclusioni, certo. Però queste conclusioni, c'è il rischio che siano fallaci e rischiano di rovinare la vita e l'immagine delle persone. Questo è. Vabbè, ragazzi, volevo parlare della partita, lo facciamo lunedì, anzi domenica con Capuano prima e lunedì in tutti i convocati dopo. Ciao a tutti. E adesso di che puoi parlare? Vabbè, parliamo del Milan. Devo salutare Maurizio Crosetti, io e te, Pardo e Capuano, stiamo qui e poi parliamo di tutto quello che volete, naturalmente, come sempre, 800 24 00 24. Però vi ricordo che dopo le 15 è iniziata la settimana scorsa e abbiamo portato fortuna a Rossi alla Rossa. Ogni venerdì c'è lo speciale sulle gare, sui motori, anche quando le gare non ci sono, perché vi teniamo il filo del discorso. A dopo. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. E convochiamo Luca e poi convocheremo anche Vito. Luca, buongiorno. Buongiorno, grazie per essere stato convocato. Allora, innanzitutto volevo parlare di questa polemica continua di Napoli, Juve, basta, non se ne può più. Non mi sembra che dopo si vada troppo oltre queste cose, cioè solo una parte di calcio, che vinca il migliore. Io da juventino spero la Juve, però il Napoli gioca molto bene, però è tutta una continua polemica, da Taglialatena, De Magistris, a quel signore di prima, ma basta, cioè, mi sembra un po' troppo eccessivo, via. Solo questo. E poi un'altra cosa, spero che l'Hellas torni là, via. Sì. Chiudiamo con questa speranza, che non è in questo momento, insomma, ha diversi problemi l'Hellas, nonostante fosse la grande favorita del campionato, ma comunque sì, però non può essere una partita, da 2 mesi è lì, è sulla carta l'organico non, più forte, ma visto Pregresso, caro Luca, non poteva essere una partita banale, cioè una partita delle tante in calendario, vuoi anche per la vicinanza dei due match, questo è quello di Coppa Italia, il ritorno di Higuaín a San Paolo, come possiamo pretendere sia una partita come le altre? No, tra l'altro Pierre non lo è mai stato, non lo è mai stato Napoli-Juve. No, ma non deve essere neanche una partita come le altre, certo. Non deve essere neanche una partita come le altre, perché la bellezza del calcio sta nel fatto che esistono partite speciali, esistono rivalità speciali e aggiungerei anche feroci, però cioè, questa è una di quelle partite nelle quali bisogna capire se il discrimine, la distanza che esiste fra tutta una serie di cose che sono l'essenza stessa positiva del calcio, perché proprio come i derby, come le partite dove la rivalità è più forte, questa ovviamente non è come tutte le altre, e però insomma la necessità che tutto vada per il verso giusto, cioè è proprio una prova importante, Intanto oggi il Napoli ha fatto una cosa bella, nel senso che sul suo sito ha pubblicato, al di là che c'era il richiamo burocratico a tutte le norme che vanno rispettate allo stadio, questo serve eventualmente per limitarsi a prendere delle multe, non altro, però alla fine c'era un bel richiamo ai napoletani, ai tifosi che andranno al San Paolo a rendere quella di domenica sera soprattutto una festa e a comportarsi dunque con spirito sportivo, e io credo che sia un bel modo, perché insomma la vigilia è stata tormentata e ricordiamoci anche che cosa è successo un mesetto fa. Alcune parole magari fuori posto anche arrivate da Napoli, ma non per criminalizzare eccetera, quindi questo è un bel modo. Sull'altra cosa, insomma, noi ci lamentiamo che metà delle partite della Serie A ci annoiano, sono inutili, non servono a niente per la classifica, e una volta che ne arriva una bella che si porta dietro temi, ci lamentiamo perché Vito, buongiorno Vito. Sì, buongiorno, eccomi. Dica. Allora, volevo intanto intervenire sulla partita Napoli-Juve, sulle polemiche, e dire che siete, e vi faccio i complimenti, siete molto garantisti nei confronti della Juve. Mi ricordo, io sono un tifoso del Napoli, ma non per quello sono uno sportivo a prescindere. Mi ricordo i periodi di Jenny La Carogna, nel quale ho sentito commenti su commenti vostri che erano proprio inascoltabili, e successivamente ma cosa c'è di inascoltabile? Non riesco a capire. No, c'è di inascoltabile sul garantismo che fate ad una certa tiposeria e ad una certa squadra. Stiamo coprendo la Juventus, dillo, no? Non è quello che penso. Guardi, non è una questione di coprire. Guardi, le spiego. Una volta fu inquadrato un giardiniere che lavorava in odore di camorra ai bordi del campo. Avete fatto delle polemiche, lo dicevano tutti i telegiornali. Adesso anche voi, adesso invece si io sentono, non ho mai fatto le polemiche su, scusi, siccome lei sta dicendo delle cose, io non ho mai fatto la polemica sul giardiniere a bordo campo, credo l'episodio sia di un Napoli-Parma di qualche anno fa. Le generalizzazioni non hanno senso, sì. Io credo qui ci sono due aspetti, c'è l'aspetto di possibili infiltrazioni e di una serie di organizzazioni criminali che da nord a sud, di qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi paese del mondo, nel momento nel quale sono organizzazioni criminali, devono essere combattute, e questo non credo ci sia discussione, no, su questo. Qui siamo di fronte a una inchiesta da magistratura ordinaria, nella quale la Juve ha in questo momento la posizione di testimone, non è indagato Andrea Agnelli, di una serie di intercettazioni con una serie di gialli che si sono aperti. Credo che il garantismo ci debba essere, ma c'è anche per i rivali di Agnelli, cioè per qualsiasi essere umano che viene sottoposto a un processo. La situazione di Gianni Agarogna è stata una situazione completamente diversa, perché sicuramente quel tipo di situazione, a parte che è indiscutibile che quella partita lì sia arrivata dopo delle cose gravissime che sono successe, e sia arrivata in una condizione al calcio d'inizio di quella partita certamente molto particolare. Sicuramente quella chiacchierata in mondovisione dei responsabili della sicurezza con una parte della tifoseria ha fatto impressione, ma non è che da qui si è fatto un processo, almeno io non ho mai fatto un processo nei confronti di quel signore lì. Non è normale in assoluto, non è auspicabile nel mondo che la sicurezza delle persone all'interno dello stadio debba dipendere da me, da lei, da Jerry, da Jenny, da Francesco, da Filippo. Dovrebbe dipendere dalle forze dell'ordine e basta. Però io mi ricordo benissimo quello che ho detto dopo quella serata lì. Ho detto pure che c'era una condizione oggettivamente talmente complicata. Io sono stato molto garantista, perché c'era una situazione oggettivamente complicata di ordine pubblico, e siccome noi non conosciamo l'ordine pubblico ma lo conoscono le persone delle forze dell'ordine che devono garantirlo, probabilmente quella figura, che non era bellissima per usare un eufemismo dal punto di vista televisivo, è stata però utile per evitare altri problemi. Vabbè, questo è quello, senti, che ho detto io 3 anni fa. Va bene, chiudiamo. Io chiuderei qua questa parentesi, perché andiamo da Lello da Napoli, che non è un ascoltatore, ma è il mago della moto, che è anche maestro, non è il mago della moto indicatoci da De Giovanni, però è uno dei quattro cui De Giovanni ancora ha fatto riferimento, maestro del autorizzato depositario del pernacchio. Lello? Sì, sono qua. Ciao a tutti. Come sta? Ciao a tutti. Allora, io sono il maestro di pernacchia per antonomasia. Sì. Tra l'altro in questi giorni ho visto, voi avete parlato, avete citato Edoardo nell'Oro di Napoli, no? Sì. Io in questi giorni ho appunto messo un video su Facebook nella quale mi sono sostituito io al posto di Edoardo. Ve l'ho anche inviato, va bene. Ma tu che c'hai un diploma, qualcosa? C'hai un diploma dove c'è scritto che sei il maestro? Sono maestro e cultore del pernacchio, non c'era bisogno di diplomi, nemmeno Edoardo ce l'aveva il diploma, però c'aveva il pernacchio, quello che abbiamo, insomma, in pochi di noi. Questo, come dice Edoardo. Descrivici quest'arte antichissima. Di petto o di testa? Di petto o di testa, il pernacchio? Vedete, il pernacchio è di testa, è di petto, di cervello e passione. Sì, il pernacchio è una sorta di equalizzatore, secondo il mio modo di vedere, perché alla fine c'è gente che soffre qualcun altro. Magari l'altro si sente in alto, la gente che lo soffre si sente in basso. Un pernacchio si equalizza il tutto. È un ascensore sociale il pernacchio. Esatto, è una livella. È un equalizzatore. È una livella. Bravo. Bravissimo. Allora sentiamo lo sto pernacchio. E quale vuoi sentire? Perché c'è quello dell'oro, c'è quello oro di Napoli, ma c'è anche quello da diaframma, che è il più potente. C'è quello Formula 1, poi c'è quello non lo so, quello no, allora scegli tu e dedica al maestro, facciamoci fare quello potente. Scegli lui e lo dedica ai Higuain. Allora facciamo la cosa, io chiedo anche, qui da me siamo in diretta, sì. Aurelio De Laurentiis, presidente del NAV, che mi conosce, allora convocami, io vengo con un megafono al San Paolo, e tutto il coro del San Paolo, che fa il nome di Higuain, come quelli facevano il coro con Edoardo, e io gli faccio una pernaccia di quelle, di simpatia, ovviamente. Faccene una di simpatia adesso. Ok, ve ne faccio uno di simpatia, che è quello da diaframma. Ascoltate. Gonzalo Golasso Higuain. Lello, grazie Lello. Si è sollevato un po' il morale dopo che eravamo finiti in cunicoli stretti. Lo spirito è questo. Io ti dico, conosco troppo Napoli, poi non la conosci mai, perché ovviamente ogni volta ti sorprende, per non capire, non rendermi conto, certo. E non avere la massima fiducia nel fatto che sarà veramente una grande occasione di ironia, perché è indiscutibile che sia successo un fatto ma grosso. Sì, certo, per lui è successo un fatto grosso, sono successi molti fatti che non è tutti i giorni, possiamo andare avanti per mesi e mesi e mesi a discutere di tutte queste cose, e certamente lo faremo, ma adesso ci fermiamo, c'è Filippo Maria Ricci in linea con cui vireremo anche da un'altra parte, anche con piacere peraltro. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. Tutti convocati. Filippo Maria Ricci, il pernacchio non era per te, eh? Ti sei perso tutta la parte. Grande momento di radio, eh? Bellissimo, eh? Ti è piaciuto un sacco, eh? Ti è piaciuto un sacco? Di diaframma. Di diaframma, sì. Bello, sì. Bello. No, ma perché ci sono vari tipi, varie tonalità. La verità è che voleva rimediare un biglietto per domenica sera, eh? Se non voleva rimediare. Ma senti come tra le righe. Senti com'è perfido Capuano. Com'è perfido Capuano che tra poco sfiderà Pardo nella schedina settimanale, là, il momento più atteso e più agonistico di tutti i convocati. Si avvicina questo momento che ormai ha perso, diciamo, il suo valore, sì, perché sì, il risultato sì. È scontato. Non è più, diciamo, non è più una grande sfida, è un classico testa coda questo. Ma no, no, testa coda mi sembra eccessivo. Ti ricordi Roma Lecce, no? Si avvicina il Cipiron. Si avvicina al momento il Cipirone, giusto? Mi confermi la tua presenza? Certo, sì. A Barcellona? Sì, sì, come no, chiaro, benissimo, chiaro. Benissimo, benissimo, assolutamente. Benissimo. Sono a Barcellona in questo momento. Senti, ma si può fare... come si chiama il... No, il Cipirone con il cannellino. Con i fagioli. Sì, no, me ne avete parlato la volta scorsa, ma si può fare la schiscetta da asporto? Sì. Io non tetrapack lo metterei. Sì, io lo devo portare. Per me arriva a Milano in condizioni perfette. Comunque, Ricci, io sono reduce dalla puntarella con le alici oggi. Ricci, tu mi puoi capire, eh? No, vabbè, allora io adesso però io piango. Non ti commuovere intanto. No, Berlusconi, ragazzi, scusate se stai calmo sulla puntarella, stai calmo. Aspetta, se interrompo questo momento di poesia con una Berlusconi 2. Ok, candidatura di Galliani in Lega, scelta definitiva nelle mani dello stesso attuale amministratore delegato del Milan. Quindi Berlusconi pronto a dare a Galliani la possibilità di presentarsi in una Lega Calcio che altrimenti il 18 di questo mese verrebbe o verrà commissariata dal presidente federale. Dunque, Filippo Maria Ricci, qual è la situazione della Lega Calcio in Spagna e soprattutto quando cavolo comincia il prossimo campionato spagnolo? Non si sa, allora no, partiamo dalla seconda risposta che era più semplice, non si sa, tutti pensano il 20, però conta che stiamo ancora aspettando di sapere la sede della partita del 2 settembre, tra un po' ci siamo, però quindi qua sono divisioni, vengono prese con tempi tecnici. Il 20, no? In Lega c'è un dominio di... Sì, il 20 dovrebbe essere. No, in Lega c'è un dominio incontrastato di Javier Tebas, mentre in Federazione ci sono delle elezioni che... Preannuncia localissime dopo 50 anni, no? 50 sono troppi, ma almeno 30 potrebbe perdere José María Villar a un candidato sostenuto dalla Lega, perché c'è una grossa guerra tra Lega e Federazione e vediamo come va a finire. Però la data del campionato, secondo me, a occhio, dovrebbe essere prima impossibile, perché comunque poi insomma dipende anche un po' da come fanno le squadre spagnole in Europa, eh? Perché gli anni scorsi qui c'era sempre il problema di quella Supercoppa europea di mezzo, poi c'è anche la Supercoppa di Spagna che qui è a due partite e quindi quello si prende la prima parte della la prima metà di agosto, di solito va dedicata a queste partite qua. Vediamo, speriamo che non ci sia nessuna spagnola nella Supercoppa europea, però mi sembra un po' difficile, complicato. Essendo uscito il Siviglia, qualche speranza c'è. Sì, no, in quel senso sì, c'è solo il Senta, insomma, va bene. Quello sì, per quanto riguarda l'Europa League, sì, però la Champions, insomma, sono ancora messi bene. La Champions la vincono o il Bayern o la Juventus, e quindi se il Celta Vigo non fa il miracolo, vedi che il triangolo è perfetto. Esatto. Quindi ancora non si sa quando comincia, no. 13 agosto, magari 20 agosto da noi la... No, 13 secondo me è impossibile, 13 agosto io lo vedo sinceramente impossibile. Per me loro addirittura sono stati tentati da un 27, però probabilmente anche per la partita, con l'Italia, arriveranno al 20. Comunque ne avevamo già parlato, i rapporti, diciamo, non è che la nazionale spagnola venga trattata particolarmente bene. dalla Liga, per cui cioè, non c'è grande feeling. Ma poi la verità, loro sono tranquilli. Loro sono tranquilli. Magari un po' ci snobbano, no? No. Non so, per me non ci snobbano troppo, perché dopo la salassata francese è ancora viva, per cui no, secondo me non ci snobbano granché. È chiaro che si sentono sicuri, come so, però diciamo non vale in teoria male a Madrid, per cui qualsiasi partita, anche la più ardua, è sempre facile. Non ascolta Ricci, invece voglio adesso che parli, che ci parli di Monchi, che ufficialmente lascia Siviglia per la Roma. Ecco il nuovo mago che si presenta a Roma. Dicci chi è, cos'è, sì, raccontaci vita, morte, miracoli e se porta Emery sulla panchina se dovesse andare a Spalletti. Allora andiamo per gradi. Ufficialmente lui ha solo detto che lascia il Siviglia, ha fatto questa conferenza stampa in cui ha detto che non ha firmato con la Roma, ha chiesto scusa perché sì, effettivamente era a Londra, ma solo per vedere il progetto, e via dicendo. Quindi lui ancora diciamo non si è legato alla Roma, in realtà probabilmente i fatti stanno in un altro modo. E la Roma prende per me un autentico fenomeno, cioè questo è un grande acquisto in sé, poi lui sarà quello che dovrà fare i grandi acquisti, però la storia parla per lui. Siviglia intanto ha vinto 9 titoli nella sua era, ma a parte questo, che praticamente prima non aveva quasi mai visti, detto questo, sono i giocatori comprati a basso prezzo e per tutti a prezzo altissimo. Cioè, diciamo che è un Sabatini addirittura forse più abile in questo. Per me sì, campo. Adesso io non so, insomma, io vivo fuori, la vedo di qua, l'ho vissuta in prima persona questa epopea del Siviglia. E cioè, ha creato intanto 2 cicli, perché non è che ha vinto questi 9 titoli in 3 anni e poi è finito tutto, no, c'è stato il ciclo di prima, quando ancora, non so, c'erano i Maresca, i Canutè, via dicendo, no, i Renato, Luis Fabiano, e poi questo nuovo ciclo è ancora più incredibile, se vuoi, perché i giocatori sono stati venduti a rotta di collo, cioè venivano comprati, venduti, sì. Cioè non so, i Rakitic, Krychowiak, questa gente che ha giocato 2 anni, non so, prima, non so, un Keita, un Dani Alves, sono rimasti tantissimo, intanto stiamo snocciolando nomi, no? Voglio dire, uno come Rakitic il Siviglia l'ha comprato a 2,5 milioni, cioè adesso capito, non so quanti può valere. Diciamo, non è solo un mero discorso di plusvalenze, ci sono plusvalenze più titoli. Certo, è chiaro, questo è il vero segreto, perché le plusvalenze sono in tanti riescono a farle, i titoli meno. Filippo, io ti ringrazio, ci sentiamo settimana prossima quando cominciamo a entrare in un certo clima. Adesso invece entriamo in clima battaglia. Vai. Vediamo la lista delle vogliamo ricordare il punteggio, ma soprattutto la tendenza. Sì, mi sembra interessante. Più 2 ultime... Pierluigi Pardo. No, più tre. C'è stata la risposta. Più tre. Tanto abbiamo qui notato. Allora, parte Capuano, decido io. Parte Capuano e poi Pardo. Sassuolo, vai. Lazio. 2. 2. Roma, Empoli. 1. Beh, direi 1. Udinese, Torino-Udinese. Torino-Udinese 1. 1. Fiorentina-Bologna. Vedi che lui va in copertura. 1. Fiorentina-Bologna 1. Beh, Fiorentina-Bologna 1, sì. Chievo-Crotone. Chievo-Crotone 1. Che ti devo dire, ragazzi? Siamo 5 a 5 adesso. Inventa. Genoa-Atalanta. Ecco, Genoa-Atalanta è più complicata. 2. X. Sparigliamo. Palermo-Cagliari. Palermo-Cagliari 1, perché secondo me il Palermo si salva in questa corsa gigantesca al Ciapanò. X. Pescara-Milan. 2. Napoli-Juventus, ragazzi. Oh, tocca a me. Io ti dico Napoli-Juventus. Metterei 1X. Metto X. No, non vale. La doppia non vale. No, ho messo X. X. Tu, Pier, 2, hai detto? Ne abbiamo sbagliate 2. Io avevo sentito 2, scusate. No, aspetta. Sì, aspetta. Voglio chiarezza. Ha detto 2. Mi tengo il 2. Tu invece hai detto 1. No, io ho detto X. Hai detto X. Metterei 1X, allora, ma dico X. Capuano, 2, Pardo. Si gioca lunedì sera Inter-Sampdoria. Chi tocca? 1-1. Ma tanto sarà inutile ai fini del risultato complessivo. Quindi allora sono tre partite diverse. Sottolineiamo le differenze, sono 3, giusto? Sì, Genoa-Atalanta, Palermo-Cagliari e Napoli-Juve. 2 le prendo io, 1 non la prende nessuna delle due. Poi e ci sentiamo ci sentiamo. Vediamo Capuano con questo atteggiamento da spaccone dopo quattro sconfitte consecutive, francamente. Quattro sconfitte consecutive? Sì, perché ero avanti. Però io ricordo quattro sconfitte consecutive di Roma. Sempre secondo gli organizzatori, secondo la questura, il vantaggio per Capuano. O viceversa. Ciao ragazzi. Ciao Pierluigi. Torniamo dopo il GR con i motori. Siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Te ne vuoi stare seduto in panchina a guardare? O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai nostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Io quando sento questa sigletta sono già carico a pallettoni, Giovanni Capuano. Pensavo mettessi su Toto Cotugno. Ma che Toto Cotugno? Questa è la nostra rocchettara sigla. Roberto Ungaro, The Voice. Ciao Roberto. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Stiamo aspettando un grande ospite che ben conosci. E allora, su cosa hai riflettuto questa settimana alla luce degli accadimenti della prima corsa? Ma allora, intanto ti do una chicca che ancora nessuno l'ha manifestata apertamente. Il biondo, ovvero Valentino, nella prossima gara argentina festeggerà i 350 Gran Premi. È un numero che fa riflettere questo. Poi, parlando invece della rossa, anche perché avremo Paolo Ciabatti, quindi possiamo chiederlo direttamente, vorrei capire di più se i due giorni di test che hanno avuto a Jerez hanno risolto un po' le cose a Lorenzo, perché la moto Ducati va fatta comandare lei, non si può imporre il proprio stile di guida. Allora vorrei capire se Lorenzo sta prendendo questa direzione oppure insiste nel volerla guidare a modo suo. Questo farà capire tante cose. Bisogna per vedere bisogna vedere chi vince tra Lorenzo e la Ducati, esatto. Tra la testardaggine di Lorenzo e la tipicità della Ducati. A proposito di biondo, oggi leggevo questa intervista con uno che tra poco sarà tra i nostri convocati, cioè Loris Capirossi, che ha scritto questo libro in cui dice: ma ogni tanto mi caricavo sul mio van, gli offrivo una ospitalità a un biondino che non sapeva dove andare a dormire. Quel biondino si chiamava Rossi Valentino. Questa non è male. Sai Carlo, quando era piccolino e Graziano, il papà lo portava alle corse, lui era un po' come un randagio, perché e veniva soprannominato Virus, perché ti si attaccava, questo me lo raccontava Lucchinelli, e non Virus. Si attaccava più. Il Virus, lui era il Virus, fantastico. Paolo Ciabatti, eccolo qui, direttore sportivo della Ducati. Ciao Paolo. Sì, ciao a voi. Ciao, grazie. Ti faccio sentire una cosa. Ciao Roberto. Buttala via. Cosa dici? Insomma. No, ancora si vede che Jorge non sta guidando la moto al meglio. È un campione, sappiamo, e mai dire mai, perché da Jorge mi aspetto di tutto. Però logicamente tutti si aspettavano di più. E dopo, con le condizioni un po' fredde, con qualche goccia, non mi trovava bene, soprattutto davanti nelle curve, andava sempre lungo. E andava molto lento, 58, e il gruppo si è andato via. Dopo piano piano ho trovato un po' la confidenza, però dopo ha cominciato a calare il pneumatico di dietro e non ha avuto magari l'esperienza o la capacità di mantenere il ritmo quello fino alla fine. Mi hanno passato tanti piloti, alla fine fortunati di tante cadute, perché sennò il risultato avrebbe sito 14esimo o 15esimo. E dopo ha fatto una grande gara, questo dimostra che qua il potenziale della moto era molto molto più alto, no? Questo è un blob sulle dichiarazioni dei piloti Ducati dopo la prima corsa stagionale. Allora la facciamo a Roberto questa domanda, Paolo Ciabatti. Sì, Paolo, io vorrei capire la direzione, perché è presto e non si può parlare di crisi Lorenzo, però vorrei capire se, siccome la moto, la Ducati va fatta appunto comandare perché ha un potenziale enorme e va sfruttato, però va guidato come lei richiede di guidare. In questo momento Orge sta cercando questa direzione oppure vuole ancora un po' imporre il suo stile di guida pulito, rotondo e farla correre? Perché da qui si capirà poi per il proseguo, cioè che strada prenderà. Paolo, avete fatto anche due giorni di test a Jerez, avete provato una nuova carena ancora, delle nuove forme, ma cosa ha dato? Innanzitutto l'ultima cosa, mi ha fatto veramente piacere vedere un'immagine che è girata nel web di Pirro al box seduto con la tuta e lui, Lorenzo, in vestito civile, come un ragazzino qualsiasi, girato ad ascoltarlo. Questo fa capire l'umiltà che comunque ha in questo momento quel pilota e quanto ce ne sta mettendo di sua. Sì, come dicevi, assolutamente, in realtà De Lorenzo hanno girato solamente un giorno mercoledì perché come sai abbiamo 5 giorni durante tutta la stagione da utilizzare per i test con i piloti ufficiali, questo per regolamento, sì. Quindi cerchiamo di usarli bene, e mentre Pirro ha girato per 3 giorni ed è vero, certo. Quello che dicevi, Jorge è arrivato un giorno prima direttamente dal Qatar insieme a Dovizioso, però lui ci sono andato subito nei box per parlare con Michele, per capire anche un po' le novità che avevamo portato a Jerez, e quindi sicuramente sta mettendoci il massimo impegno. È vero che il suo stile di guida deve modificare un pochettino, così come noi dobbiamo rendere la moto più adatta anche le sue caratteristiche. Insomma, incontrarsi a metà strada, non muro contro muro, ma incontrarsi. No, beh, devo dirti che in realtà il fatto che la nostra moto abbia ancora una criticità quando i piloti rilasciano i freni e tenda ad allargare la curva, quindi essere sottosterzante, è un problema che conosciamo, su cui stiamo lavorando. E quindi per ottenere il massimo dalla moto, adesso bisogna guidarla come è capace di fare e ha dimostrato in Qatar Andrea Dovizioso, però sicuramente questo non vuol dire che non stiamo lavorando con i nostri ingegneri per rendere la moto per migliorare la moto negli aspetti in cui deve essere ancora migliorata. Giovanni Capuana, qualche curiosità? Gli giro il messaggio che è arrivato adesso, cioè se Stoner ha lasciato qualche sortilegio sulla Ducati. No, direi di no, perché poi di campioni ce ne sono stati dopo. Sì, ma devo dirti anzi che Casey ci ha dato, ci sta dando e ci darà una mano proprio nello sviluppo della moto. Abbiamo previsto 2 test con lui, ancora una a Barcellona e una a Misano nei prossimi mesi, proprio perché è veramente importante il suo contributo e quindi è chiaro che lui ha fatto delle cose splendide su una moto che però era molto diversa dalla moto attuale. Non dimentichiamo comunque che Ducati ha fatto 10 podi nel 2016 e ha vinto 2 gare, una con Dovizioso e una con Iannone, quindi ha dimostrato di essere competitiva quasi su tutti i circuiti. Vorremmo toglierci questo quasi perché vorremmo essere competitivi su tutte le piste e quindi dobbiamo ancora lavorare per migliorare gli aspetti di questa. Ma oggi se guardate fuori dalla Ducati, chi è l'uomo di riferimento? Perché questo è vero che abbiamo visto solo una gara, però si fa fatica a identificare il favorito. Allora c'è l'esplosione di Vignales con la Yamaha, c'è Valentino che è sempre Valentino, c'è Marquez che è il campione del mondo. Cioè, posso riassumertela così? Di chi avete messo la foto nel box? Marquez, mi sembra così: Marquez come Hamilton, Valentino come Vettel, Vignales come Vignales, senza guardare in faccia nessuno. È così, guarda, Paolo? Maverick ha fatto ha esordito sulla Yamaha essendo sempre più veloce in tutti i test che abbiamo fatto, da Valencia a Sepang a Phillip Island, in Qatar, test, Qatar gara. Quindi voglio dirti, direi che ha dimostrato di essere un pilota velocissimo, che sa sfruttare veramente al 100% una moto molto bilanciata come la Yamaha. Valentino lo conosciamo, è un pilota che magari può sembrare in difficoltà durante il weekend, ma in gara riesce sempre a trovare la sua. Marquez è un pilota che ha dimostrato lo scorso anno, quando secondo noi aveva una moto che non era probabilmente la migliore del lotto, di essere molto intelligente, per cui quando può vincere vince, ma se si accorge che in una gara è meglio portare a casa dei punti, fa quello che ha fatto in Qatar, non cade più come cadeva all'inizio della sua carriera in MotoGP, in cui era tutto o niente. Adesso è un pilota intelligentissimo e sicuramente sarà sempre della partita. Credo che ad esempio a Austin, tra 2 Gran Premi, sarà difficile batterlo, perché lui a Austin ha sempre avuto un passo leggermente superiore a tutti gli altri piloti. Sarà interessante vedere Vignales contro Marquez a Austin, perché questo dimostrerà secondo me molte cose. Paolo, volevo farti sentire invece una cosa che ha detto Carlo Pernat a me e a Roberto Ungaro lunedì. Ecco, Covi secondo me quest'anno bisogna starci molto attento, perché ha due occhi che sembrano quelli che non ha mai avuto. Sì, non ha mai avuto quegli occhi lì. I ragazzi, attenzione, perché lui c'ha tre cose positive. Primo, è maturato tantissimo. La guerra con Iannone non sembra ma gli è servita. Gli ha fatto capire alcune cose, credetemi. Secondo, quella moto ce l'ha un pugno, è la sua. Terzo, inaspettatamente o aspettatamente, a seconda dei punti di vista, lui è il numero uno della Ducati. Perché quest'anno Lorenzo zero. Te la ricordi queste, Roby? Sì, Tranchant, Carletto come sì, sempre. Lui magari esagera. Però i primi due punti sono d'accordo, perché si è fatto un po' più cattivo Dovi, nel senso agonistico, e questo fa bene soprattutto nel corpo a corpo, negli ultimi giri, perché Dovi è bravissimo, gli è forse mancato quel zig di cattiveria per riuscire a avere la meglio. Sei d'accordo, Killeristi? Paolo? Guarda, credo che l'anno scorso la vittoria a Sepang sia stata una sorta di liberazione da un incantesimo di arrivare tante volte vicino alla vittoria e non riuscirci mai poi a raggiungere questa vittoria. Devo dirti che sono d'accordo con Carlo sulle prime due cose che ha detto, ovviamente non sono d'accordo sulla terza, ma Dovizioso è in un periodo di forma eccezionale, ha una maturità incredibile, è sempre stato, e l'ho dimostrato in Qatar se ce ne fosse bisogno, un pilota estremamente intelligente, ha fatto una gara molto intelligente, ha sfiorato la vittoria. Direi che contro Vignales ovviamente era difficile poter replicare, ci ha provato fino all'ultimo, ma Maverick l'ha seguito e ha visto che noi nel terzo, sapeva bene che nel terzo settore perdevamo abbastanza e quindi dovevamo cercare di recuperare grazie alla potenza del nostro motore nel quarto e poi nel rettilineo, però ovviamente negli ultimi giri Dovi ha dovuto guidare un pochettino in difesa e Maverick ce l'ha fatta. Devo dirti che in Ducati non ci sono mai stati piloti numero uno, numero due, noi cerchiamo sempre e davvero è così di mettere entrambi i piloti nelle stesse condizioni. Il fatto di aver scelto e preso un campione del mondo come Jorge Lorenzo, ovviamente stiamo investendo, abbiamo investito su di lui e lo metteremo nelle condizioni per dimostrare tutto il suo talento, e penso però che Dovizioso sarà un avversario difficile per tutti i piloti della MotoGP, perché è veramente velocissimo. Grazie Paolo. Grazie a Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati. Roberto Ungaro, fai tu la prima domanda a Sua Maestà Leo Turrini. Oh Leo, grande Leo, innanzitutto spero che tu non sia sulla Ropero, perché è venerdì e venerdì quel tratto lì diventa un disastro. È un terribile sulla Pero Cormaro. Tutte le Mercedes ferme, perché caro maestro, ti come sei montato la testa, Turrini. No, come avrete scoperto dalla lettura dei CD, dei giornali, quello che è, sembra che in casa Mercedes la sconfitta di Melbourne l'abbiano presa in una maniera disastrosa. Prima hanno detto che si trattava di un errore di strategia. Ieri ci hanno spiegato che è un problema di obesità della macchina. Obesità. La macchina di Hamilton è botta se cicciona, con sovrappeso. Allora io vorrei citare Belucci, prossimamente diranno è stata l'invasione della cavallette, una pioggia di rane, era il fuso orario. Insomma, per una volta che perdono, che non gli capita poi così spesso, che abbia il buon senso qui sulla Pero Cormano, dove io sono in coda, di dire, va bene, siamo stati battuti da una Ferrari che è stata più veloce di noi, non sapremo se ricapiterà. Insomma, in Australia il 26 marzo 2017 per festeggiare la nuova rubrica di Carlo Genta a tutti gli avvocati è accaduto, quindi Genta inventa una nuova rubrica per ogni gran premio, poi saremo tutti felici. Basterebbe inventarsi la nuova sigla, visto che io ripeto, quando è che mettiamo su Toto Cotugno? Toto, ma ancora Toto, Toto, sì, perché io ho ancora nelle orecchie quella cosa lì che ha fatto Sebastian Vettel, che mi auguro approfitti di queste due settimane per andare a lezione. Ma Toto Cotugno, io te lo faccio mettere. No, non Toto Cotugno. No, anche perché Vettel si sta preparando un nuovo brano. Quale? Io vi vorrei segnalare, tanto non ce l'avete perché appartiene solo alla mia memoria di liceale, è un brano come direbbe Fiorello, 1979, Io voglio tutto adesso, si chiamava. Quindi Turrini, tu stai sfidando, Io voglio tutto Turrini, adesso tu. Tu stai sfidando i potenti mezzi di Radio 24, se trovate tutto adesso dei come diceva il Buongiorno, vuol dire che siete davvero, come io penso da sempre, la migliore gente che solchi le onde erziare, o quello che è, la modulazione di frequenza, le app, la radio via web, lo streaming e tutto, ma sono sicuro che non la trovate, così come la Mercedes non ha ancora trovato la spiegazione del perché è stata battuta sotto il sole di Down Under in Australia. Comunque si era intuito, Leo, che l'avevano presa male. No, malissimo, tu hai... Ragazzi, quanto tempo ci abbiamo messo a trovarti questa canzone? No, il tempo di un pit stop, Il tempo di un pit stop. Sfrenata per la regia di Radio 24, e vi devo dire che non è un caso che Vettel adesso abbia abbandonato il Toto Cutugno e sia passato verso i perché effettivamente, se davvero quest'anno dovesse riuscire nella grande impresa che tu chiamiamo bla bla bla, si tratterebbe di un qualcosa di paragonabile al ritorno di Riccardo Fogli dei Pumedesimi, hai capito? Qualche cosa che chi l'avrebbe mai pensato solo 30 anni fa. Quindi insomma, voglio dire, stiamo vivendo un momento bellissimo. Questi a Mercedes mi fanno venire in mente, posso dirlo, Giulio Velasco. Voi ve lo ricordate Giulio Velasco? Come si fa a dimenticarlo? Ma che domande sono? Ma, scusa. Benissimo. Allora, io un paio di mesi fa ho mandato Giulio Velasco a fare una lezione. A proposito, dove sta adesso? Giusto per commissario tecnico della nazionale. Lo so, ma dove vive? Perché volevamo cercare nei giorni scorsi. Ti sto facendo una domanda di servizio in diretta. È tornato a Buenos Aires. Ah, quindi vive là. Va bene. Sì, no, sta là 5 mesi all'anno quando c'è l'attività della nazionale. È partito proprio settimana scorsa. 2 mesi fa io l'ho mandato a fare una lezione allo staff del reparto corse della Ferrari. E gli ho detto: Giulio, mi raccomando, ricorda costoro il grande mantra della tua filosofia esistenziale sportiva, e cioè chi vince festeggia e chi perde spiega, non diceva sempre Velasco. E devi spiegare, arriva bene a Binotto, a Marchionne, la Rava, la Fava, la Genta, tutto lo staff di Radio 24, e noi ferraristi ci siamo stufati di spiegare. Lui è andato, ha fatto questo bellissimo discorso, adesso chi è che spiega, sia pure per una settimana, 10 giorni, vedi Shanghai, quelli della Mercedes, prima il cambio gomme, poi dopo il sovrappeso, poi ve l'ho detto prima, l'invasione delle cavallette, sì, poi c'è stato un raggio laser che ha offuscato e la poi gigrobo d'acciaio, eccetera eccetera. Bravo, senti Turrini, ti voglio far sentire invece che cosa ci ha detto lunedì sempre il papà di Giovinazzi. No vabbè, diciamo che il talento c'è, io sono stato un pazzo a metterlo sul kart a 2 anni e mezzo, dove ho iniziato a girare col kart, poi ho anche dei filmati che poi un domani posso anche tirare via. 2 anni e mezzo girava, a 4 anni le ho comprato un kart 50. Ma chiaramente noi non speriamo questo, diciamo il male della gente, ci mancherebbe altro. Se dovesse nascere quell'opportunità, va bene. Però non di certo speriamo questo, veramente. Allora, 2 anni e mezzo l'ha messo sul kart, Roberto. Non aveva una mamma, Giovinazzi. Non vi ha chiamato il telefono azzurro? Non si è fatto difatti, trovatevi una madre che fa mettere il figlio a 2 anni e mezzo sul kart. 2 anni e mezzo, ragazzi. Ma Valentino, quando è salito in moto, Roby? Ma si dice 4-5 anni, perché poi il papà lo metteva. Quindi era, era già juniores, cioè, rispetto alla giovinezza. Era già âgé. Era già âgé. Dico un'ultima cosa e voglio provocare. Io sì. metterei come sigla da trasmissione il refrain, il claim di Leo. Ti ricordi in Australia dopo le prime prove? Lui come perché ha portato bene Leo. Vai sempre fare In realtà io l'ho detto pensando ovviamente alla Ferrari, ma pensavo anche agli Iannone che si stende a ogni ordine di Belen, perché siamo tutti ferraristi e tutti di Iannone. Quindi voglio dire, come accennavo poco fa, cerchiamo di godere il momento. Adesso ci sono due gran premi consecutivi. A questo proposito, il tempo è tiranno, ragazzi, il tempo è tiranno. Il tempo è tiranno e io pure do un minuto a testa per descrivere minuziosamente. Mi viene in mente, amici miei, ma non è il caso. Descrivere minuziosamente la prossima pista, a cominciare dall'Argentina, dove correrà il moto mondiale. Allora, Argentina è un circuito dove si è il momento verità. Vedremo finalmente la reazione di Marquez con Vinales, vedremo una grande battaglia, i valori in campo e anche una riscossa, secondo me, della Ducati. Sarà la volta buona per Dovizioso? Chissà, speriamo. Ma aspettiamoci anche il biondo, perché sono 350 gran premi e lui è un animale da gara e in gara verrà fuori. E Iannone, che per sua ambizione ha detto Suzuki non si merita tutto questo. Quindi vedremo, perché comunque è anche lui della partita. Può essere a podio, quindi sarà interessantissimo. Punto chiave di quel circuito. Sì. Punto di chiave di quel circuito è un circuito abbastanza completo, serve tutto, quindi è un test importante per la Ducati, perché sappiamo tutti che ha un motore strepitoso, ma pecca ancora nelle curve di ritorno, e quindi lì si può misurare un po' come sarà poi per il proseguo del campionato, perché abbiamo sempre detto che in Europa sarà molto più dura, quindi deve approfittarne lì e nella gara poi seguente, quella in America, dove anche lì serve tanto motore, ma lì bisogna guardarsi tutti da Marquez, perché ha sempre fatto la differenza. Leo Turrini, Cina. Ma io mi allargo, voglio dirvi, integrando chi mi ha preceduto, Argentina favoritissimo Iannone, perché la pista l'ha disegnata lo zio di Belen, quindi non c'è partita. Vince Iannone su Suzuki a casa dei suoi parenti acquisiti, punto. In Cina, in Cina è un po' delicato, perché è un tracciato, diciamo, normale, anche se è nuovo, perché è stato fatto nel 2004 dal famoso Tilke, ma c'è un rettilineo lunghissimo, più di un chilometro, le curve sono velocissime, quindi è diversissimo da Melbourne. Allora mettiamola così, se la Ferrari va forte anche in Cina, allora davvero rimettiamo tutte le settimane i po', io voglio tutto adesso, voce di Seb Vettel ai cori, Kimi Raikkonen, Maurizio arriva bene, Sergio Marchionne, perché significherebbe un bel risultato in Cina, che la Ferrari può lottare per il titolo fino alla fine. Ecco, l'ha detto e su questo chiudiamo. Ciao ragazzi, ciao Leo Turrini, Leo Turrini e ciao Roberto Ungaro, figurati noi. Giovanni, domenica. A domenica, ore 17, facciamo un lunghissimo repartita di Napoli-Juve, perché dai, il resto. Sì, certo. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Veronato in regia, Edoardo Lavezzana in redazione, ciao a tutti, a domenica. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti!